Mi stavo chiedendo da dove cominciare, perché la domanda è appunto sempre quella: da dove comincio? Allora mi sono detta, incomincerò dalle cose piccole, dai dettagli, dalle cose insignificanti, quelle di cui si occupano i poeti, i fotografi e anche gli attori. E quindi un diario. Il diario. 1991. Mi chiamo Rachel Corrie. Ho 12 anni. Sono nata il 10 aprile del 1979 a Olympia, Washington, da mia madre e da mio padre, Craig e Cindy Corrie. Ho un fratello, Chris, una sorella, Sara, e una gatta, molto ma molto vecchia, di nome Febe. In seconda elementare c'erano le regole della classe che pendevano dal soffitto. L'unica che riesco a ricordarmi ora mi sembra una buona regola di vita. Tutti devono sentirsi al sicuro. Al sicuro con se stessi, al sicuro fisicamente, al sicuro per le proprie convinzioni, al sicuro e basta. Mi pare la regola migliore alla quale si possa pensare. Quando ho superato l'esame di quinta c'era un elenco di domande per il nostro annuario. Una di queste era: cosa vuoi fare da grande? Beh, tutti hanno scritto cose tipo il dottore, l'astronauta, l'uomo ragno. Poi voltavi pagina e trovavi il mio manifesto in 5 paragrafi sul milione di cose che avrei voluto diventare, dalla poetessa on the road alla prima donna presidente. Ok, in quinta elementare era una cosa molto tenera, ma 10 anni dopo. Ora sono matricola al college e non sono ancora convinta di voler cancellare l'uomo ragno dalla mia lista. Capirete che la cosa è un po' snervante. Mia madre. Oh, mia madre. Mia madre mi accompagnava a piedi fino in fondo alla collina per aspettare il pulmino. Avevo paura di sbagliare strada. Mi ricordo, però forse me lo sono inventata, che a volte lungo il tragitto decidevamo che non sarei andata a scuola. Così rubavamo un po' di tempo per noi. Mi portava a pranzo e andavamo in giro per le librerie a Seattle. Mia madre mi comprava dei libri sull'amore e sulla delinquenza. Non me l'ha mai detto, ma è evidente che lei voleva che io diventassi una rapinatrice di banche. No, mia madre voleva che diventassi esattamente quella che sono diventata. Scombinata, deviante e troppo casinista. Costruisco il mio mondo da sola e metto cappelli nuovi a tutti. Sono così piena di rughe che devo afferrarmi grandi lembi flaccidi delle palpebre, sollevarli sopra le tempie per tentare di vederci qualcosa. Nel mondo che mi sto inventando ci sono dei poliziotti con cappelli da vichinghi, investitori di borsa con copricapi da sombreri e i preti. Ah, i nostri cari preti con le mutande in testa. Nel mondo che mi sto inventando tutti si salutano dal finestrino della macchina e la gente porta degli altoparlanti. Sì, dei grossi altoparlanti attaccati al petto da cui esce musica a tutto spiano. Così puoi capire da lontano di che umore sono. E poi ci sono first lady con manette e fruste in pelle e i presidenti portano collari di metallo, grossi collari di metallo col guinzaglio stretto. Ok, sono Rachel. A volte porto jeans strappati, a volte porto indumenti di fibra sintetica e a volte non porto proprio niente e nuoto nuda nel mare. Il mio segno astrologico è l'ariete, che sarebbe il montone, mentre il mio segno zodiacale cinese è la pecora e il mio nome, Rachel, significa pecora. Ma io ho un fuoco nella pancia. Un tempo era una palla infuocata così rumorosa che io non riuscivo a sentire nessuno e quindi parlavo molto e non ascoltavo un granché. Poi sono andata alle medie. Alle medie devi essere figo, devi essere forte, devi essere tosto e io mi sono sforzata tantissimo, tantissimo di essere all'altezza. Ma per fortuna mi è capitato di vincere un viaggio gratis in Russia. E ho visto un altro paese per la prima volta. C'erano i russi. Vi piace la nostra sporca città? Era fatiscente, era distrutta, era sporca, era meravigliosa. Mi sono guardata indietro attraverso l'Oceano Pacifico e alcune cose qui a Olympia, Washington, mi sono sembrate un po' strane e sconcertanti, ma ero sveglia in Russia. Ero sveglia per la prima volta, con gli occhi sgranati, un ghigno sulla faccia. Nel volo di ritorno da Anchorage a Seattle era tutto buio. Poi ha cominciato a sorgere il sole e l'acqua luccicava. E mi sono resa conto che stavamo volando sopra Puget Sound. Presto avremmo visto le isole in quell'acqua e gli alberi sempre verdi su quelle isole. E ho cominciato a singhiozzare. Ho singhiozzato. Ho singhiozzato davanti a tutto quello splendore, nel piano dell'alba più meravigliosa che io abbia mai visto. Perché non era abbastanza. Non bastava. Non bastava a rendermi felice di essere tornata a casa. Forse sono stati gli alberi a dirmi di restare, non lo so perché sono rimasta, però c'è stato un momento in cui io ho sentito chiaramente che dovevo restare. È stato lo stesso momento in cui ho capito che avrei fatto l'artista e la scrittrice. E non me ne fregava un cazzo. Non me ne fregava un cazzo se ero mediocre, non me ne fregava un cazzo se morivo di fame. Non me ne fregava un cazzo, anche se tutta la mia cazzo di scuola si girava verso di me, mi puntava il dito contro e mi rideva in faccia, perché ero sveglia, ero finalmente sveglia, ora e sempre, forever and ever. Ieri ho sentito Chris da Gaza, mi ha detto di raggiungerlo. Ho bisogno di andarci. È poco più di un anno che a Olympia organizzo delle mobilitazioni contro la guerra e a favore della giustizia sociale. E ho cominciato a sentire che a questo lavoro manca una connessione. Una connessione fra la politica estera degli Stati Uniti e la gente che la subisce, quella politica estera. Io penso solo che tutti abbiamo il diritto di criticare le politiche del governo, qualsiasi politica, soprattutto quella che finanziamo con le nostre tasse. Io mi sento piuttosto isolata dal resto del mondo perché ho vissuto a Olympia per tutta la mia vita e il mio attivismo, fino a questo momento, è rimasto profondamente legato ad Olympia. Da un po' di tempo ho iniziato a sentire questo bisogno di andare da qualche parte per conoscere chi si trova all'altro estremo di tutte quelle tasse con cui viene finanziato l'esercito americano. Cose da fare: spedire via internet i verbali di martedì, scrivere un articolo per il bollettino di lunedì. Tom, richiamare Tom e fare un elenco di tutte le cose che mi passano per la testa. Mi dedico alla compilazione di liste. Liste molto importanti. Per esempio, 5 persone che avrei voluto conoscere, ma che sono morte. Salvador Dalí, Carl Jung, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy e Josephine. Me ne faccio un'altra. 5 persone con cui vorrei bazzicare nell'eternità. Rainer Maria Rilke, Gesù, E.E. Cummings, Gertrude Stein e Zelda Fitzgerald. 6. Charlie Chaplin. Non avevo intenzione di farmi coinvolgere così profondamente dall'attivismo. Io non lo so, giuro, non lo so che cosa mi abbia spinto ad iscrivermi ad un corso di local knowledge. Avete presente il local knowledge? Cioè, c'è un tale coinvolgimento con la comunità. Io ho la fobia della comunità. La gente a me spaventa, soprattutto quelli che vengono dalle zone periferiche di Olimpia. Io non credo che la mia intenzione fosse di essere di particolare utilità per le comunità che studiavamo. Io stavo cercando dei fatti, dei fattarelli, delle cose piccole che però facessero emergere un ambiente autentico, minuzie, tipo ho lavorato a Mount Rainier. Abbiamo seguito una donna nel bosco. Si era quasi trasformata in un gufo. Un gufo, giuro. In qualche modo, dopo anni di ricerche sull'avvistamento dei gufi, la laringe di questa donna si era trasformata. Lei gracchiava, bubolava in un linguaggio che veniva articolato in un punto molto più basso delle tonsille. Io credo che la sua lingua deve aver cambiato forma. Ecco, io penso a quanti di noi in questa regione svolgono un tipo di lavoro progressista e nuotano al di sotto della superficie, facendo un inventario di quello che c'era un tempo e setacciando alla ricerca di quello che c'è adesso. C'è la possibilità, la seria possibilità, che quello che cerchi ti cambi. La tua lingua potrebbe cambiare forma, come la donna Rainier. Studiare la storia di questo posto mi fa sentire più radicata. Abbiamo sicuramente guadato le stesse acque e passeggiato sulle stesse spiagge dove guadavano e passeggiavano delle persone molto coraggiose. Questo mi fa sembrare il coraggio una cosa maggiormente possibile. Noi possiamo studiare la storia e scegliere da che parte vogliamo stare. Noi non siamo al di fuori di questa realtà. Per quello che ne so, più di 1000 persone, 1000, 2000, 1000, facciamo 1000, sono detenute da qualche parte negli Stati Uniti. E il perché non è chiaro. Arrestano lo sporco kamikaze, qualcuno che a quanto pare era in una fase molto iniziale di preparazione di un attentato contro gli Stati Uniti. E questa è la grande notizia. Ma che cosa ci dice questo di tutte le altre persone che sono comunque detenute da qualche parte? Ci dice che queste persone erano nella fase iniziale di preparazione di un bel niente. Ecco, la ricerca dello spazio che io occupo in tutto ciò mi ha costretta ad uscire dal guscio e a occuparmi della mia comunità. Io sono ancora piuttosto sconvolta da questo semestre. Ho parlato davanti a un gruppo di 40 studenti di varie nazionalità. Ho organizzato due conferenze, partecipato alla realizzazione di eventi a non finire e ballato. Sì, io ho ballato con un gruppo di 40 persone dai 7 ai 70 anni vestite da colombe. Ho passato un sacco di tempo con il gruppo dei senza tetto, sono andata con loro al consiglio comunale e ho partecipato al dibattito locale. E ho passato tutta la notte fuori casa il 1° maggio. Chi è questa persona? Come sono arrivata fin qui? Io non lascerò la mia casa solo per dedicarmi al mio lavoro o per compiere qualche altro gesto di autoconservazione. Io non lascerò mai il mio letto. Segreteria telefonica. Mamma, sono Rachel. Mi mandi via mail l'elenco di quelli che conosci che possono essere un buon contatto se mi trovo nei guai? Non ho intenzione di finire nei guai, però amici, parenti che possono chiamare i loro parlamentari di riferimento o magari sono semplicemente interessati a sapere che sto andando laggiù e vogliono ricevere qualche notizia. Senti mamma, lascio il tuo numero al giornale, a The Olympian. Mamma, Mamma, io ti prego in ginocchio, fai attenzione al tuo linguaggio quando parli con i giornalisti. Sì, sì, devi fare attenzione. Per esempio, potrebbe essere intelligente usare con cautela la parola terrorismo. E se fai riferimento alla spirale di violenza o all'idea dell'occhio per occhio, mamma, non ribadire il concetto che il conflitto israelo-palestinese è un conflitto equilibrato, invece che lo scontro fra un popolo quasi del tutto disarmato e la quarta potenza militare del mondo. Ecco, questo è il genere di cose a cui fare attenzione quando si parla con i giornalisti. Ti chiamo stasera. Ciao mammi, ciao. Oh. Abbiamo una madre molto partecipe. Eccessivamente partecipe certe volte. Significa che dobbiamo stracciare, dobbiamo urlare, dobbiamo gridare per ottenere un minimo spazio per crescere. E significa anche che dobbiamo lasciare che lei si occupi di cose che noi saremmo perfettamente in grado di fare da soli. Io considero mia madre molto moralista, sì, no, non in senso negativo, però ci sono delle cose che noi figli non abbiamo mai fatto, essere sgarbati, appropriarsi delle cose, ma anche solo essere maleducati, niente. Mia madre si chiede se noi non saremmo stati dei bambini più sani, dei bambini migliori, se ci avesse portato in chiesa. In chiesa, mamma, in chiesa. Io spero che fosse soltanto una tattica per spaventarci. Comunque, potrei scrivere una storia della mia famiglia basata sulle cose che ho scoperto nel corso degli anni frugando in cassetti, credenze. Album per i neonati incompleti. Doppi barattoli dell'origano provenienti da case in cui ho abitato e dalle quali ho traslocato, portandomi dietro i barattoli delle spezie e le tovagliette. Ah, le tovagliette a casa mia hanno sconfitto succo di mirtillo, le ostriche stufate e la cera per le candele. Mi si spezza il cuore quando frugo nei cassetti di mia madre. Mi spezza il cuore il modo in cui ripone i suoi gioielli. Lei si toglie gli orecchini e li mette in delle scatoline. Ecco, mi spezza il cuore il pensiero di mia madre in piedi, con quel suo grosso reggiseno, con i collant tirati su fin sopra le mutande, mentre si mette il rossetto, mentre stende una polvere rosa sulle ossa del volto finché non s'appiccica nei fori della pelle. Mia madre invecchia e si trucca facendo passare i braccialetti attraverso i polsi, lì dove la pelle è scesa. Mia madre è così grande che sembra un palloncino della parata di mesi. Mia madre è così grande che incombe su tutto. So che ti spavento, mamma. Mi dispiace spaventarti, ma io voglio scrivere e voglio vedere. E di cosa posso scrivere se rimango chiusa nella casa di bambola, nel mondo fiorito dove sono cresciuta? Tu mi hai dato un potenziale. Lasciami sconfiggere i miei mostri. Mi hai fatta tu. Tu mi hai fatta. Mamma, perché papà non mi scrive mai? No, non mi scrive mai, non ha mai risposto alle mie mail, non mi ha mai dato un consiglio sensato su come trovarmi un lavoro e non mi ha mai detto come è riuscito a farsi quasi portare via dall'Oceano Pacifico mentre era in cerca di conchiglie. Mamma, ora tu vai da papà e gli dici che io mi trovo un fidanzato di 40 anni, sì, di 40 anni, per recuperare la mia indole sottosviluppata. Ah, sei proprio come tua madre. Ti prendi gioco dei poveri disabili. Mi critichi per non averti scritto quando sai benissimo che riesco a malapena a vedere il computer. Da quando porto gli occhiali da vista, tua madre dice che mi fanno gli occhi troppo piccoli. Comunque, vedente o non vedente, avrei dovuto scriverti, non ci sono scuse. Pazienza se mi becco solo roba di seconda mano, gli scarti delle mail indirizzati a tua madre che Forse si degnerà di condividere con suo marito, o magari no, ma non mi lamento, no, è la vita dei padri, lavora tutto il giorno, io do tutto gratis, non mi faccio mai sentire, papà, non ricevi un'email personale? Perché se io ti mando un saluto, un salutino, nelle mail indirizzate a mamma, io mi devo preparare alle prese in giro, alle frecciatine neoliberiste nei confronti della mia educazione progressista, che sono il ringraziamento che mi viene riservato ogni volta, papà, attento a te, oppressore. Per dire il vero, ultimamente le frecciatine neoliberiste vanno abbastanza a segno. In una lezione il nostro ospite era, credo, un medico, ma la sua seconda occupazione era il lavoro sui sogni. Ciao, mi chiamo dottor Jenson, sono laureato ad Harvard con un dottorato in economia politica, ma nel tempo libero analizzo i disegni del mio asino domestico di nome Afrodite. Mi piace il mio corso. Le lezioni sono abbastanza interessanti. Il programma è completamente indecifrabile. E gli insegnanti? Gli insegnanti si avvolgono nella carta, cantano in tedesco e ci gridano degli insulti. Sì, perché così ci facciamo un'idea del dadaismo. Papà, per fortuna tu, Chris e Sara avete tutti uno stipendio fisso, perché io sto decisamente perseguendo una strada che mi garantisce un salario. Salario. Tre biscotti, anche una manciata di spinaci. Cose che ho: un gatto domestico, mani piccole, dita dei piedi a forma di artiglio, ginocchia, gomiti, cosce, una gola, una pancia, 6 diari perduti sotto i treni. Sotto i sedili di treni che attraversano il paese, 8 penne a sfera nere, denti aguzzi, occhi a spillo e speranza. Cose che voglio: un orto di zucche e terra nuda da rivoltare e rivoltare, pavimenti in legno per balletti in calzini, aria e lamponi, a volte la mattina pericolo e baci rubati, a un furtivo amante misterioso, Colin. Ah, di Colin ho esattamente i ricordi di cui ho bisogno. Splendeva il sole, Colin leggeva libri di economia politica, io ascoltavo musica e rasavo il prato. Andavamo a scuola a piedi la mattina e finalmente si è messo a piovere. Colin voleva che io camminassi più veloce. Colin voleva sempre che io camminassi più veloce. E io no, Colin, va bene, io voglio arrancare. Voglio riconoscere le felciti, va bene? Ebbene, una mattina mi sono svegliata presto con delle commissioni da fare e ho deciso che avrei incontrato per caso Colin e la sua nuova ragazza, la puttanella con il culo da strappona. Mi sono depilata le ascelle, mi sono messa la minigonna, mi sono imbrattata di lucida labbra. Come mi diverto. Immagino di vivere in una pubblicità della Fanta. Sono su una spiaggia con una comitiva di amici muscolosi e stiamo sempre a ballare. Ma quei due non sono al caffè, non sono neanche al negozio di alimentari, forse sul ponte? No, al chiosco dei giornali? No, guido fino a scuola, imbarazzata da me stessa. Ovviamente, lui emerge dalla biblioteca, senza la puttanella col culo da strappona. Hey, che ci fai qui? Do una letta a certi giovani anarchici. Lancia le parole come se fossero degli elastici tesi fino al limite. Io eseguo una danza durante la conversazione, come se stessi facendo la pipì. E come stai? Bene, sto bene, mi vedo con certa gente. Io sono sempre sulla spiaggia con la comitiva di amici muscolosi. E tu come stai? Bene, sto bene. Ho trovato un lavoro. Faccio le pulizie. dei cessi. Carino, la mia amica del North Carolina se n'è tornata a casa. C'era un'amica del North Carolina? Non me lo ricordo. Lo sai, Leslie. Il sole splende sulle mele delle mie guance, mi si appiccicano le ciglia e io continuo incessantemente a ballare, ballare, ballare, ballare, cazzo! Cazzo, Colin! Ma che è successo? Se le cose andavano così bene! È facile prendere questa strada. Quando è arrivato il momento, lo sai, ti innamori di qualcuno che è costantemente in procinto di lasciarti. Mercoledì ho fatto una passeggiata nel bosco, sul sentiero fino al ponticello di legno, e sono rimasta ad osservare un tronco che era stato messo lì per attraversare il ruscelletto. Qualcuno aveva preso dei sassi dal torrente e li aveva allineati come delle rane, sì, delle piccole ranocchie multicolori. Allora mi sono tolta gli stivali, mi sono tolta i calzini e li ho posati sul bordo del ponte. Poi sono saltata sulla riva e mi sono arrampicata su quel tronco. Ci ho camminato sopra, a piedi nudi, agilmente, riuscendo a far cadere soltanto un sasso in quell'acqua. Mi sono accovacciata fra i sassolini e ho raccolto delle rocce interessanti tutte per me. Le ho tenute in mano, le ho pulite e me le sono messe in tasca. Poi sono saltata sulla riva tipo Huckleberry Finn con i jeans arrotolati e ho dato le spalle al ponte e ai miei due stivaletti, marroni e vuoti. Ho cantato una canzone al bosco. Ho spalancato la bocca e ho cantato. Tutti siamo venuti al mondo e tutti un giorno dovremo morire. Molto probabilmente, in una certa misura, da soli. E se questa solitudine non fosse una tragedia? Se la solitudine fosse quello che ci consente di dire la verità senza avere paura? Questa consapevolezza che vivrò la mia vita come una privilegiata. Non sono in grado di raffreddare le acque bollenti in Russia. Non posso essere Picasso. Non posso essere Gesù. Non sono in grado di salvare il pianeta con le mie sole mani. Sono capace di lavare i piatti. Oggi è il 25 gennaio del 2003. Pochissimi problemi all'aeroporto di Gerusalemme. I jeans strappati, maglioncino peloso con la pancia di fuori e ho svoltato. E ovviamente il fatto di aver dato l'indirizzo della mia amica israeliana. L'unica domanda è stata: dove l'hai conosciuta? Mi è sembrato che la donna dietro il vetro non si sia accorta che mi tremavano le mani. Abbiamo preso un taxi collettivo per andare all'aeroporto e la Terra Santa è molto rocciosa. Sembra che uno, insomma, si possa anche precipitare giù da queste colline. Poco prima di lasciare l'aeroporto, leggo sulla mia copia di Let's Go Israel che sono morti più israeliani in incidenti stradali che in tutte le guerre di Israele messe insieme. Il giorno dopo sto ancora cercando di capire che cosa fare di questa ghiotta notizia. Appunto, cose da fare. Comprare scheda telefonica, comprare telefono, scrivere un'email a Michael, chiamare Joe e Gilly, cambiare i soldi e chiamare mamma con il numero di cellulare. Ho avuto un impatto abbastanza morbido con il coprifuoco. Una corsa fuori, nel mezzo del nostro training, per accaparrarci da mangiare prima che chiudessero i negozi a Beth Sahur. Nel tempo che ci è voluto perché tutto il gruppo si accaparrasse shawarma e falafel, il rumore era diventato l'urlo di una macchina, il belato dei clacson delle jeep militari e una voce attraverso il megafono che gridava IDF, Israel Defense Force, polizia di confine, IDF, Israel Defense Force, che poi credo sia l'esercito israeliano, non me lo ricordo. Mentre continuavamo il nostro training, fuori c'erano rumori, c'erano delle luci intermittenti, ma in un certo senso per me non era una cosa reale, perché ero in quell'edificio con quella gente e l'aria era satura di tutte le nostre storie. La cosa che fa più paura ad un americano non ebreo quando parla dell'autodeterminazione dei palestinesi è la paura di essere o di suonare antisemita. Gli israeliani soffrono e gli ebrei hanno una lunga storia di oppressione. Noi siamo ancora in parte responsabili per tutto questo, ma credo che si debba fare una distinzione netta fra la politica di Israele come Stato e gli ebrei. È una specie di ovvietà, ma c'è una pressione molto forte affinché queste due cose vengano confuse. Io cerco di chiedermi: a chi fa comodo? A chi fa comodo che la politica di Israele come Stato e tutto il popolo ebraico vengano percepiti come una cosa sola? Comunque è a cose di questo tipo che penso continuamente e c'è un'evoluzione nel mio pensiero. Parlare di Israele e di Palestina è una cosa veramente nuova per me e io non sempre mi rendo conto delle implicazioni che possono avere le mie parole. Ho degli appunti dal training. Allora, quando si parla, mai niente per sentito dire. Chiamare ospedali e fonti ufficiali. Usare citazioni. Non dare l'impressione di giudicare secondo le categorie di giusto o sbagliato. Non violenza. Non toccare mai il tuo interlocutore. Non correre. Non portare niente che possa essere usato come un'arma. Nessuna azione di propria iniziativa. La notte del 27 gennaio un attacco a Gaza ha ucciso 14 persone e ne ha ferite una trentina. I territori e Gaza sono sotto un coprifuoco estremamente rigido, almeno fino a dopo le elezioni di domani. Non è assolutamente permesso uscire di casa, neanche per comprare da mangiare, niente. E qui sono abbastanza sicura, mi trovo a a Gerusalemme e vado in giro con i palestinesi, però resto a guardare quando loro vengono fermati per il controllo dei documenti. Lo so che è una cosa che non riesco ancora a capire bene, la realtà del coprifuoco, dei posti di blocco, e io mi mette un po' a disagio il tempo che mi ci vuole per fare i conti fino in fondo con il fatto che c'è della gente che vive così. Alle 10 del mattino sono in viaggio verso Rafah. Jean ha trovato il taxi. Soldati alla fermata dell'autobus. Mercato bombardato a Gaza City. E i bambini mi stanno appiccicati al culo. Mi tirano la spazzatura e mi gridano: come ti chiami? Dormito in tenda. Uno sparo attraversa la tenda. Comincio a fumare. Oggi ho deciso di seguire il consiglio di Joe e di scrivere in ogni scheggia di tempo libero ogni giorno. Beh, io ancora mi pento delle pagine bianche dei diari della Russia. Comunque, adesso sono più grande, il mondo non gira intorno a me e sono nell'appartamento del fratello di Jehan, Ahan Yunis. I quartieri che ci hanno chiesto una qualche forma di presenza sono Yubna, Tel el Sultan, Hai Salam, Brazil, Block G, Zorob e Block O. C'è una visibile differenza fra questo edificio a Khan Yunis e, diciamo, Brazil o Block G. I bambini qui hanno i giocattoli, ma un edificio come questo, con i muri bianchi e con gli uccelli che entrano e escono dalla finestra, sarebbe sintomatico di una povertà devastante negli Stati Uniti. Lo zio di Jean è venuto a sedersi con noi. Noi costruiamo i loro palazzi. Noi lavoriamo in fabbrica. Dice che sono i capi a fare la guerra. Oggi visite a Gaza, oggetto assistenza medica, ONU, Parlamento dei bambini, Collettivo delle donne. E bisogna fare un bello striscione in arabo e in inglese. Dopo aver aiutato quelli dell'acqua a fare delle riparazioni, siamo andati a comprare la stoffa per questo striscione. Quando è arrivata Jenny, ha trovato me e Will che aspettavamo di pagare al tizio questi 30 metri di cotone bianco. Ci ha detto che qualcuno era stato ucciso fra Rafah e l'Egitto. Ci siamo dati appuntamento a casa e a bordo di un SUV. Sì, stranamente californiano. Noi siamo andati oltre il cimitero, dal lato palestinese del confine. C'era uno stuolo di gente che aspettava lì. Ci hanno dato una barella e fatto strada dentro un ufficio. Poi siamo scesi tenendo ognuno un manico di questa barella. Ci siamo avviati. 5 volontari internazionali più Jean. E Jenny parlava al megafono. Non sparate, siamo civili disarmati. Ha nominato i nostri paesi di provenienza e comunicato alla Israel Defense Force la nostra intenzione di recuperare questo cadavere. La prima reazione dei soldati è stata gridare: tornate indietro. Poi hanno cominciato a sparare a circa 30 metri davanti a noi. E dato che abbiamo continuato a camminare nella direzione del cadavere, gli spari si sono fatti più vicini, colpendo il terreno a 3 o 4 metri davanti a noi. È arrivato un furgone bianco con una luce blu. Il tipo attraverso il megafono parla e dice: tornate indietro, riavrete il corpo più tardi. Poi il furgone se l'è filata tutta birra. un carro armato e un bulldozer emergono dal lato del posto di blocco, diretti verso l'uliveto. Hanno cominciato a spostare la terra fra noi e l'uliveto. Si è creato un cumulo di terra e ci hanno sparato dentro, ripetutamente. Ecco, questo è il mio brutto disegno del cadavere che abbiamo appena recuperato. Aveva una grossa mano bianca sospesa nell'aria come se stesse nuotando o facendo un lancio a baseball. Ho sognato di cadere, di morire cadendo da qualcosa di polveroso, liscio, sdrucciolevole, tipo le scogliere dello Utah. Ma io continuavo a rimanere aggrappata a qualcosa, e ogni volta che un appiglio di roccia si staccava, un appiglio dove avevo puntellato i piedi o le mani, io cadendone cercavo un altro e mi ci aggrappavo, e non avevo il tempo di pensare a niente, solo di reagire, come se stessi giocando a uno di quei videogame adrenalinici, e nella mia testa una voce non faceva che ripetere: non posso morire, non posso morire, non posso morire, non posso morire. È positivo, sì. Sì, è positivo perché c'è stato un periodo in cui sognavo di precipitare e la voce nella mia testa diceva: ecco, adesso muoio, quindi è positivo. Il dottor Samir dice: prima dell'intifada niente spari, niente carri armati, niente bulldozer, niente, niente di niente. Io non ho un fucile nella mia casa. Guardo il mio giardino e mi chiedo se anche quest'anno mangeremo i frutti del nostro albero. Confido nel mio Dio, quindi non c'è problema. Il 6 febbraio sono rimasta sul bulldozer mentre riparava la strada per tutto il giorno. Johnny e Will parlavano al megafono e tenevano uno striscione. Un carro armato è rimasto lì durante tutta l'azione. A un certo punto è arrivata una jeep. Ecco, questo mi ha terrorizzato perché so di almeno una persona alla quale hanno sparato da una jeep verde. Alcuni soldati, forse tre, sono scesi dalla jeep e si sono diretti nella direzione dei volontari internazionali e gli hanno sparato addosso. Più tardi Jenny si è ritrovata delle schegge nelle scarpe. Rafa. Case fantasma. Stelline fosforescenti nelle camere degli adolescenti. Cemento che si sgretola, la luce anonima e costante del telescopio a infrarossi. Sono in Palestina da 2 settimane e un'ora. E ancora ho pochissime parole per descrivere quello che vedo. Io non so se molti bambini qua abbiano mai vissuto senza i fuori delle granate nel muro. Però anche i più piccoli di loro si rendono conto che la vita non è così dappertutto. Oggi hanno cercato di insegnarmi a dire Bush è un pupazzo in arabo. Allora si diceva Bush Hamdullah. No, aspetta. Bush Hamdullah. Non credo che la traduzione sia venuta molto bene. Comunque ci sono dei bambini di 8 anni. Che sono più consapevoli della struttura del potere globale di quanto non lo fossi io solo qualche anno fa. Niente avrebbe potuto prepararmi alla realtà della situazione qua. È inimmaginabile se non la vedi. Ma anche a quel punto la tua percezione non coincide affatto con la realtà. Tutti i problemi che l'esercito israeliano dovrebbe affrontare se sparasse a un civile americano disarmato, o il fatto che io ho i soldi per comprare l'acqua, mentre qui distruggono i pozzi. E ovviamente il fatto che io posso scegliere di andarmene. Se mi sento indignata, entrando per un attimo nella vita di questi bambini, io mi chiedo come sarebbe per loro entrare nella mia vita. Una volta che hai visto il mare e hai vissuto in un posto dove l'acqua è un bene scontato e non ti viene rubata di notte dai bulldozer, se hai passato una sola serata, una, in cui non ti sei dovuto preoccupare che i muri della tua casa potessero crollare improvvisamente su se stessi, se non sei circondato da carri armati, bulldozer e ora anche da un muro di metallo gigante, ecco, a quel punto io mi chiedo se saresti in grado di perdonare il mondo per tutti gli anni passati a sopravvivere, e solo a sopravvivere, di fronte al loro tentativo costante di eliminarti da casa tua. Ecco, è questo quello che io mi chiedo rispetto a questi bambini. Che cosa accadrebbe se davvero sapessero? A me è permesso vedere il mare. Sono a Rafah, una città di 140.000 persone, e il 60% di queste sono profughi, alcuni già due o tre volte. E al momento l'esercito israeliano sta costruendo questo muro alto 12 metri fra Rafah e il confine. 602 case sono state completamente distrutte, il numero di quelle parzialmente demolite è ancora più alto. E oggi stavo salendo su delle macerie e allora alcuni soldati si sono rivolti a me dall'altro lato del confine. Via, via! Perché stava arrivando un carro armato. E poi mi hanno detto: ciao, e come ti chiami? Come ti chiami? C'è qualcosa che mi disturba profondamente in questa curiosità amichevole. In un certo senso siamo tutti ragazzi, ragazzi incuriositi da altri ragazzi, ragazzi egiziani che si rivolgono a strane ragazze che vagano sul percorso dei carri armati, ragazzi palestinesi a cui si spara da quando fanno capolino da dietro il muro solo per vedere quello che sta succedendo, ragazzi del volontariato internazionale in piedi davanti ai carri armati, e ragazzi israeliani dentro ai carri armati che a volte ti sparano, a volte ti fanno ciao, e molti costretti a stare qui, molti semplicemente aggressivi che sparano in maniera anonima nelle case mentre noi ci disperdiamo. Il numero dei volontari internazionali varia, sono dalle 5 alle 6 persone, e c'è la richiesta di una presenza notturna costante per fare la guardia a uno dei pozzi alla periferia di Rafah, perché i due pozzi principali sono stati completamente distrutti la settimana scorsa. Però la sera, più o meno dopo le 10, diventa molto difficile spostarsi, perché l'esercito israeliano spara, e quindi chiaramente siamo troppo pochi. Io sto appena cominciando a capire qualcosa da questo, che è senza dubbio un intenso apprendistato sulla capacità che hanno le persone di organizzarsi anche nelle situazioni più disperate. I due posti di blocco principali sono tutti e due chiusi, e questo significa che i palestinesi che vogliono andare a iscriversi al prossimo semestre dell'università non ci possono andare, la gente che deve andare a lavorare non ci va, e quelli che devono tornare a casa non possono farlo, e i volontari internazionali che domani avrebbero un incontro nei territori non ci potranno andare, cioè potremmo andarci se sfruttassimo appieno il nostro privilegio di stranieri bianchi, ma anche questo comporterebbe qualche rischio, come quello di essere espulsi o di essere arrestati, anche se non abbiamo fatto niente di male. per il momento resto ferma a Rafah. Ci sono un sacco di palestinesi gentili che si prendono cura di me. Ho un po' di febbre e mi hanno dato da bere dei bibitoni al limone per curarmi. E la donna che tiene le chiavi del pozzo, quello dove stiamo ancora dormendo, non fa altro che chiedermi della mia mamma. Vuole essere sicura che gli scriva. Ah, ecco, mi ha scritto lei. Rachel, sono molto preoccupata per te. Ma so che molta di questa preoccupazione non è per te, ma per la popolazione, per le famiglie con le quali stai costruendo solidarietà. Ho un po' di pensieri, perché mi sembra che potresti facilmente venire manipolata da una fazione o dall'altra. Quanto a me, mi sembra di lottare contro una vita di indottrinamenti. I palestinesi sono stati davvero invisibili per me, ma tu stai cambiando le cose. Riguardo alla violenza palestinese, io semplicemente abborro ogni forma di violenza. Capisco che la maggioranza dei palestinesi sta solo cercando debolmente di difendersi, ma qui basta la parola kamikaze e la gente si chiude in riccio. Il mio cuore è pieno di cose e è difficile trovare le parole. Cerca di stare al sicuro, di stare bene. Non è che stai pensando di tornare a casa? Per via della guerra e di tutto il resto. So che probabilmente non ci pensi, ma spero che tu senta che non ci sarebbe niente di male. Mami. Mamma. Mamma. Ho passato la mattinata di ieri e anche la serata in una casa sulla linea del confine a Hai Salam. Mi hanno dato la cena e hanno una TV via cavo. Le due camere che danno sulla strada principale sono tutte e due inagibili perché sono state crivellate di colpi, perciò tutta la famiglia è costretta a dormire nella camera dei genitori e io dormo accanto alla figlia più piccola e tutti ci dividiamo le coperte. Poi stamattina ho cercato di aiutare il figlio più grande a fare i compiti di inglese e dopo abbiamo guardato tutti insieme Pet Sematary, che sarebbe un film dell'orrore. Si sono divertiti da matti a vedere quanta paura faceva a me. Il venerdì qui è vacanza e quando mi sono svegliata stavano guardando i Gummi doppiati in arabo. Allora sono rimasta per un po' lì in quella confusione di coperte a godermi quelli che mi sembravano i cartoni animati del sabato mattina. Poi sono andata a piedi verso Brazil Block, che è dove sta la grande famiglia, quella che mi ha adottata con tutto il cuore. L'altro giorno la nonna mi ha fatto tutta una ramanzina in cui non faceva che soffiare e indicare il suo scialle nero. Allora ho detto a Nidal di dirle che la mia mamma sarebbe stata molto contenta che anche qui c'è qualcuno che mi tartassa per il fatto che il fumo fa diventare i polmoni neri. Io sono stupefatta dalla forza con la quale queste persone difendono così tanta parte della loro umanità di fronte all'incredibile orrore che c'è nelle loro vite e di fronte alla presenza costante della morte. Credo che la parola giusta sia dignità. Poi certo ci sentiamo travolti e rischiamo di scoppiare e ogni volta che io organizzo o partecipo a una protesta pubblica, mamma, mi viene un'angoscia, ma un'angoscia nera che venga fuori uno schifo, che sia imbarazzante, che ci siano quattro gatti e che la stampa ci rida dietro. Ecco, sì, la maggior parte delle volte ci sono quattro gatti, spesso e volentieri la stampa ci ride dietro, però almeno riusciamo ad ottenere che la parola Rafah venga nominata al di fuori della stampa araba. Ma se non sono i media internazionali o il nostro governo a dirci che siamo preziosi, che siamo efficienti, allora dobbiamo essere noi a farlo e farlo in maniera visibile e un modo per farlo è continuare a lavorare. Mamma, perché non dice a papà di lasciare il suo lavoro neoliberista e fare l'insegnante di matematica? Sì, tu magari potresti indurlo a sabotare il suo lavoro neoliberista. Magari potrebbe scaricare, per sbaglio, un sacco di dollari sotto costo nel mercato internazionale. Scherzo, scusa. Ti voglio bene. State bene. Rachel, mi è difficile scriverti, ma non pensarti è impossibile. Quindi ti scrivo poco e annoio i miei amici a pranzo dando sfogo alla mia paura. Ho paura per te e credo sia una paura fondata, ma sono anche fiero di te, molto fiero. Come dice padre Remfert, preferirei essere fiero della figlia di qualcun altro. Così sono i padri. Abbiamo la fissazione di non volere che i nostri figli, indipendentemente dalla loro età, dal loro coraggio e da quante cose buone stiano facendo, siano soggetti a una minaccia così grande e neanche che assistano a tanta sofferenza. Tu puoi dire, e lo hai detto, che è sbagliato da parte mia nascondere la testa nella sabbia, ma io dico solo che sto cercando di nascondere la tua testa nella sabbia. È diverso, è una fissazione, sai, e non c'è speranza che io cambi su questo aspetto della questione. Ti abbraccio, ti bacio forte. Il tuo papà. Papà. Certe volte mi sembra di passare il mio tempo a fare propaganda con mamma, dando per scontato che lei ti racconti tutto e... e così finisco per trascurarti. Non essere troppo preoccupato per me. Io al momento il mio cruccio è che non siamo per niente efficienti. Ancora non mi sento particolarmente in pericolo. Sto cercando di capire che cosa farò quando verrò via da qua e una delle ragazze più importanti del nostro gruppo partirà domani e vederla mentre saluta tutti mi fa capire quanto sarà difficile. Per la gente di qui andarsene è impossibile. Loro parlano molto tranquillamente del fatto che non si sa se saranno vive o morte quando noi torneremo. Io davvero non voglio sentirmi in colpa per questo posto, per il fatto che posso andare e venire così facilmente. Fammi sapere se ti viene in mente che cosa potrei fare con il resto della mia vita. Se ti va, potresti iscrivermi pensando che io stia seguendo un corso di telaio alle Hawaii. Sentiti libero di inventare qualsiasi cosa e io sarò felice di assecondarti. Mi ricordo che una mattina Colin ed io siamo andati a piedi a Paget Pantry a comprare le sigarette e alcuni premi per una tombolata che avremmo fatto nel pomeriggio. Era il mio ultimo giorno come coordinatrice dei centri di accoglienza alla Behavioral Health Resources, sarebbe un centro locale di igiene mentale. Ho convinto Colin ad accompagnarmi solo perché a Paget Pantry c'è un flipper con le immagini del musical degli Who, Tommy. Alla radio gli speaker parlavano di donazioni del sangue. Allora ho chiesto al tizio dietro al balcone che cosa fosse successo. Le due torri. Qualcuno ha bombardato. Aerei. Colin ed io ci siamo seduti su un marciapiede sotto una cabina telefonica. Abbiamo pensato che stesse per scoppiare la terza guerra mondiale. Ho chiamato papà. Poi ho pensato, se davvero sta per scoppiare la terza guerra mondiale, alla fine andarsene all'altro mondo come coordinatrice dei centri di accoglienza, beh, è una gran ficata. Ah, come si sopravvive in un luogo che non esiste? Dio. Cereali per la colazione. Il profeta Maometto. Autobus giocattolo. Armi di distruzione di massa. Alimentari all'angolo. Storia squallida. Mel Gibson. Tempesta di sabbia. Malattia venerea. Governo per procura. Contaminazione dell'acqua. Ah, scelte. 1. Tornare ad Olimpia. Finisco la scuola. Iniziative o intervento su Gaza e liberare il garage di Sara dalle mie cose. 2. Andare in Egitto o a Dubai per un anno. Imparo l'arabo. Guadagno un sacco di soldi e me ne torno in Palestina. 3. Andare in Svezia per un mese. Potenzialmente orrendo, resto senza un soldo. 4. Cercare di rimanere a Rafah. Soldi, produttività. 5. Viaggiare da qualche altra parte. Bene, direi che la mia è un'anima nomade. Sono sempre stata invidiosa degli uccelli migratori. Fra un anno o due, o forse l'inverno prossimo, me ne voglio andare in Sud America. Sì. Quando partirò, percorrerò i su e giù di quella strada che ho percorso per tutta la vita, attraverso i cedri, oltre il fienile, e passerò davanti alla mia vecchia scuola, tirerò giù il finestrino e mi metterò a urlare: vaffanculo! Vaffanculo! Giusto in onore dei vecchi tempi. Poi me ne vado al nord, verso l'aeroporto, oppure me ne vado al sud, verso il Messico. Quando partirò, partirò ridendo. Io tornerò a trovare mia madre, i miei amici del college e a nuotare nuda a Puget Sound. Ma non avrò paura di tornare, come ho sempre avuto paura. Piangerò, ma sorridendo, e abbraccerò la mia mamma. 9 marzo, manifestazione di oggi. 25 serre distrutte. 300 persone sono state radunate fuori dall'insediamento, le hanno sparato addosso, le hanno picchiate. Non capiscono che cosa sia successo. 13 marzo. Spari da una torretta colpiscono una bambina di 12 anni. Palazzo evacuato, 8 famiglie. Spari dentro un ospedale, colpite 3 infermiere. Case demolite, 41 feriti. 41 feriti. Mamma, sono Rachel, ho fatto degli incubi. C'erano dei carri armati e dei bulldozer fuori dalla nostra casa e io e te stavamo dentro. No, è che a volte l'adrenalina agisce tipo un anestetico per giorni e poi un po' della realtà della situazione viene fuori. Ieri ho visto un papà che usciva dalla sua casa con i suoi 2 bambini e con una mano alzata nella direzione dei carri armati. Lui pensava che stessero per far esplodere la sua casa ed è stato un mio errore di traduzione a farglielo credere. Io sono convinta che fosse soltanto questione di tempo, infatti gli israeliani stavano facendo detonare un esplosivo nel campo accanto, ma questo papà che è uscito dalla sua casa con i suoi 2 bambini e con quell'aria così triste ha attirato la mia attenzione più degli altri in questo particolare momento. Ho pensato a quello che mi hai detto, al fatto che la violenza palestinese non aiuta la situazione. 2 anni fa 60.000 abitanti di Rafah lavoravano in Israele ora soltanto 600 e la maggior parte di loro si sono trasferiti perché tre posti di blocco trasformano un tragitto in macchina di 40 minuti in una odissea interminabile. Tutte le fonti di crescita economica sono completamente distrutte. L'aeroporto chiuso. Il confine con l'Egitto per il commercio, ecco, al centro dell'attraversamento ci hanno messo una bella torretta per i cecchini e l'accesso al mare completamente inaccessibile da 2 anni. Un tempo qui esisteva una classe media, non molto tempo fa. Ci hanno riferito che in passato le spedizioni di fiori da Gaza verso l'Europa venivano ritardate di 2 settimane a causa dei controlli di sicurezza. Ti puoi immaginare quanto valgano dei fiori tagliati 2 settimane prima, quindi chiaramente il mercato si è esaurito. Poi arrivano i bulldozer e radono al suolo le fattorie che coltivano ortaggi e i giardini. Cosa resta alla gente? Oh, dimmi se ti viene in mente qualcosa. A me no. Perciò quando sento qualcuno che dice che qualsiasi gesto di violenza palestinese giustifica le azioni di Israele, io non solo contesto quella logica in base al diritto internazionale e al diritto legittimo di un popolo alla lotta armata per difendere la propria casa e la propria famiglia. Non solo contesto quella logica in base alla 4ª Convenzione di Ginevra che proibisce le punizioni collettive, il trasferimento di una popolazione occupante nella zona occupata e la distruzione di infrastrutture civili. Non solo contesto quella logica in base alla consapevolezza dell'impatto relativo che fucili russi, vecchi di 50 anni e esplosivi fatti in casa possono avere su una delle attività degli eserciti più potenti del mondo, supportato dall'unica superpotenza del mondo. Io non solo contesto quella logica in base a tutto questo, ma contesto quella logica in base al buon senso. Ma se chiunque di noi, chiunque, vedesse la propria vita, il proprio benessere completamente strangolati e fosse costretto a vivere con i suoi bambini in uno spazio sempre più ristretto, sapendo che soldati, carri armati, bulldozer possono arrivare a prenderci in qualsiasi momento, se venissero a distruggere tutte le serre che noi abbiamo coltivato da chissà quanto tempo. Ma non credi, mamma, che in una situazione simile la maggior parte della gente si difenderebbe come meglio può? Mi hai chiesto della resistenza non violenta. Io ti ho nominato la prima intifada. Ecco, per quello che ne so, la maggioranza dei palestinesi porta avanti una resistenza non violenta gandhiana. Ma con chi credi che passi il mio tempo in case che stanno per essere distrutte, in mezzo alle sparatorie? Chi credi che siano queste famiglie che ci ospitano nelle loro case e non vogliono niente? Anche se sono povere, poverissime, ci dicono non siamo un albergo. Noi lo facciamo perché pensiamo che poi andrete dalla gente del vostro paese a dirgli che vivete con i musulmani. Forse capiranno che siamo gente per bene, siamo gente tranquilla, noi vogliamo solo la pace. Ma credi che io me ne vada in giro con i guerriglieri di Hamas? A questa gente sparano addosso ogni giorno e loro cercano di portare avanti le loro vite come meglio possono. Ma non credi che sia proprio questa l'epitome della resistenza non violenta? Quando ieri hanno fatto detonare quell'esplosivo, il rumore ha frantumato tutti i vetri delle finestre. Io mi stavo mettendo a giocare con i bambini. Mi portavano il tè. Volevo solo dire alla mia mamma che sono molto spaventata e che sto mettendo in dubbio la mia profonda fiducia nella bontà del genere umano. Penso che tutto questo debba finire. Penso che sia una buona idea lasciare tutto quello che stiamo facendo e dedicarci a far sì che questo finisca. Non penso più che sia una cosa estremista da fare. Io voglio ancora scatenarmi al ritmo di Pat Benatar e avere dei fidanzati e fare ridere i miei colleghi, ma voglio anche che questo finisca. Questo non è quello che ho chiesto quando sono venuta al mondo. Questo non è quello che questa gente ha chiesto quando è venuta al mondo e sicuramente non è quello che chiedono adesso. Questo non è il mondo in cui tu e papà avete voluto farmi entrare quando avete deciso di avermi. E questo non è quello che ho pensato quando avevo 2 anni. Ero davanti al lago Capitol e ho detto: questo è il grande mondo e io ci voglio entrare. Quando tornerò dalla Palestina sicuramente avrò gli incubi e mi sentirò perennemente in colpa per non essere lì. Ma posso trasformare questo senso di colpa in altro lavoro. Venire qui è stata la cosa migliore che io abbia mai fatto. Vi voglio bene. A te e a papà. Rachel, si è andata a mettere fra la casa e il bulldozer. Il bulldozer ha puntato dritto verso di lei. Ha continuato ad avanzare con un mucchio di terra che gli si ingrossava davanti. È arrivato fino a Rachel e lei, per mantenere l'equilibrio, è salita su quel mucchio. Anche in quel momento è apparsa chiaramente nel campo visivo dell'autista del blindato. È caduta sotto il mucchio di terra. Abbiamo visto un piede, tutti e due i piedi, scomparire. Il bulldozer ha semplicemente continuato ad avanzare. I suoi amici sono corsi a chiamare l'ambulanza. Rachel ansimava. Aveva il volto coperto di sangue. Uno squarcio le tagliava la faccia, dal labbro alla guancia. È morta in ambulanza, pochi minuti dopo. Rachel Corrie è stata uccisa il 16 marzo del 2003.